Grazie, che bello avere ministri straordinari. Gruppo Lode, stasera la Lode, un altro livello. Leo, Noemi, le vostre voci insieme erano bellissime. Possiamo ringraziare il Gruppo Lode, ha fatto un ottimo lavoro, ci avete portato veramente nei cortili. Stasera si piange. Ha avuto reazioni particolari. Chi ha detto, beh, io me ne vado. Chi se ne vuole andare? Stasera non si parlerà del raffreddore, ma si parlerà di come utilizzare bene questi fazzolettini. Come stiamo, Chiesa? Pronti a piangere? No. Chi è pronto a piangere? Antonio Bianchi? Antonio Bianchi piange sempre, e non per questo è meno uomo. Io voglio ringraziarlo per il suo esempio. Chiesa, 2 settimane fa, il nostro pastore ci ha parlato di un argomento che non prendiamo proprio sempre. Abbiamo parlato, vi ricordate di quale tema? Delle emozioni, benissimo. Chi ha avuto modo di rimuginare su questo messaggio? Chi ha pensato, boh, voglio proprio analizzare di più questo? Posso vedere le vostre mani? Chi l'ha ascoltato di nuovo su YouTube per sentirlo meglio? No? Più o meno. Però veramente il Signore ha cominciato a parlare al nostro cuore. Dio ha cominciato a parlare al nostro cuore su come essere sottoposti a delle buone emozioni, ma non essere schiacciato dalle nostre emozioni. Ed è un equilibrio molto particolare, ed è un equilibrio che lo Spirito Santo provvede nella nostra vita. E quindi voglio ribadire un paio di parole che il pastore ha detto, un paio di frasi. Dio ci ha creati per vivere con delle emozioni, e viverle non è un peccato e non è una condizione sbagliata, ma le emozioni sono una componente fondamentale della nostra vita. Viverle è una benedizione, offre empatia per gli altri e offre sensibilità. Quando però riconosciamo che diventano invadenti, cioè che sconfinano verso territori a cui non dobbiamo dare spazio, fanno più rumore della voce dello Spirito Santo, vuol dire che ci stanno trascinando in una direzione differente. Ci piace questo? Quindi ho cominciato a pensare, Signore, come possiamo essere una Chiesa che vive le emozioni in una maniera bella, che vive le emozioni così come Tu le hai create per noi? Perché sapete, Chiesa, Dio ci ha creato con delle emozioni. Nella Sua creazione, Lui ha impresso nel nostro cuore, nella nostra anima, nel nostro spirito, una parte della nostra vita che si chiamano emozioni. Gli studiosi hanno riconosciuto che ne esistono 6 in tutto il mondo, in tutte le culture, in tutte le epoche. Ci hanno fatto anche un film su questo. Ma questo che cosa ci fa capire? Che Dio ci ha creato con delle emozioni. Ma quando quelle emozioni cominciano a diventare consistenti, pervasive, persuasive, noi possiamo ritrovarci in stati, in decisioni, in momenti della nostra vita fuori dal nostro controllo, lontani da quello che era il destino che invece Dio aveva preparato per noi. In particolar modo, un'emozione ha la potenza di scatenare un destino differente nella nostra vita. E voglio parlarvi di questa emozione, che è il dolore, che è la sofferenza. Oh, che brutto messaggio! Sono venuta per la gioia, però ve lo dirò con gioia, perché è il contesto che guarderemo. Quindi, Chiesa, quando parliamo del dolore, pensa a queste parole. Quando attraversano la valle di Baca, che è una valle di angoscia e di pianto, di deserto, essi la trasformano in un luogo di fonte e di sorgente. E mentre camminano acquistano forza. Amen? Ti piace? Quindi affrontiamo il tema della sofferenza, del dolore, con questa prospettiva. Quello che viviamo ha il potere di farci passare attraverso delle fasi che però possono portarci da qualche parte di molto molto bella. E uno dei momenti che genera il dolore, la sofferenza, è il lutto. Che cos'è il lutto? Non è semplicemente la morte di una persona cara, è anche la morte di una persona cara. Ma si può definire come lutto tutto quello che ha a che fare con la perdita di una relazione, di un'aspettativa, una distanza con una persona, una distanza, ad esempio, in una relazione che è cambiata, un matrimonio che fallisce, un matrimonio, una separazione, un divorzio, un aborto. Ma ancora più semplicemente, perché queste sono fasi che magari possiamo riconoscere in noi, Però il lutto arriva anche quando dobbiamo cambiare fase di vita. Ad esempio, dall'infanzia all'adolescenza, dall'adolescenza all'età adulta, dall'età adulta alla menopausa, all'andropausa, alla pensione. E ogni volta vivere un lutto. Perché? Lasci una condizione che conosci bene e ne stai per abbracciare, con voglia o forzatamente, una nuova, di cui non sai nulla, che ti espone nelle emozioni, che ti espone a nuove decisioni, e molte volte questo processo per noi diventa più forzato, prende costa. E questo è elaborare un lutto. Faccio un esempio del bambino, questa è la fase dell'inserimento. Un neonato vive la fase dell'allattamento. Quando smette di essere allattato al seno, il genitore, la madre, vive un lutto di dipendenza del bambino da se stesso. Siete con me ancora? Dopo questo viene, io li ho imparati questi termini dal gruppo delle mamme che mi istruiscono, viene la fase dello svezzamento. E cioè smetti con il latte e sporchi tutta la casa mangiando le stelline che vengono sparate. Questa settimana ho dovuto mangiare a Lara, erano sparate dappertutto. Dopo la fase dello svezzamento arriva la fase dell'inserimento. Chi sta tremando per questa parola? Quante mamme sono qui e tremano? Nonni coinvolti nell'inserimento all'asilo, nell'inserimento a scuola. Dopo c'è una parola nuova che l'ho imparata da Leo e Regina, che è lo spannolinamento, cioè il togliere il pannolino al bambino. E anche questo prevede un lutto, perché il bambino deve fare i conti con i propri bisogni, perché non c'è più qualcosa che lo contenga. Ogni fase prevede un lutto, ogni fase prevede la morte di una situazione e l'inizio di una cosa nuova. Ecco perché il lutto è buono. Il lutto è buono perché ci dà una nuova prospettiva. Il lutto, ed elaborare il lutto chiaramente, ci dà la prospettiva del poter entrare in una fase di vita nuova, in una relazione nuova, in una condizione nuova. Pensiamo all'essere licenziati sul lavoro. È un enorme lutto, è un cambiamento, specie se hai vissuto ad un'età più adulta. Ecco che noi dobbiamo fare fronte con tutte le nostre risorse, con tutte le nostre riserve, e fronteggiare questo trauma. Un incidente può essere un lutto, un cambio di casa, un cambio di nazione. Il lutto è buono. Cominciamo a parlarne in questi termini. Vi piace? No. Voglio fare alcuni esempi. Sapete che uno dei lutti maggiori è il capriccio per un bambino? Quando il papà, la mamma dice no e il bambino piange, il bambino scalpita perché non vuole elaborare il suo lutto. Posso avere la marmellata? No, ora è troppo tardi. E se continuiamo a dire vabbè dai, facciamogliela prendere perché così non piange più, non lo stiamo aiutando ad elaborare questo lutto. Invece un genitore che aiuta ad elaborare un lutto è: domani mattina potrei averlo, ma la voglio ora, domani mattina potrei averlo, ora vai a letto senza marmellata, ma domani mattina puoi averlo. Quindi il bambino capisce che non può avere quello che vuole. Bambini che elaborano bene il lutto dell'infanzia, vi assicuro che sono degli adulti più maturi, che non piangono in continuazione, che non si lamentano in continuazione, che non sono frustrati dalle condizioni. Voglio farvi un esempio. Io sono zia e amo essere zia. Sapete qual è la parte più bella dell'essere zia? Che quando piangono, li dai indietro, no? Quindi hai tutte le carte in regola, poi quando piangono tu li puoi viziare, quando piangono li dai indietro al genitore. E così è successo una volta, io e mio marito ci siamo resi disponibili per tenere Gioele. Il problema è che Gioele aveva 6 mesi e non era mai stato senza i genitori. E vi assicuro che non ha elaborato quel lutto, anzi noi non abbiamo elaborato il lutto di avere un bambino a casa senza genitori che ha pianto per 1 ora e 15 minuti, quasi fino allo sfinimento. Questa è stata una cosa che abbiamo dovuto elaborare io e mio marito, ci siamo detti siamo degli zii cattivi, non vorrà più guardarci in faccia, non vorrà più stare con noi. Comunque gli anni sono passati, Gioele ha imparato a stare con gli zii e una volta è venuta a casa. Chi conosce Gioele ha una caterba di macchinine e lui conosce ogni dettaglio di quei giochi. Stavamo giocando in cucina e bam, una macchinina va a finire sotto la lavastoviglie. Non c'era Vito, non c'erano i suoi genitori e Gioele comincia a dire: zia, mi manca una macchinina. No, erano 11 e sono 11. No, zia, erano 12 e sono 11. Va bene, zia, ma ne hai 11 per giocare. No, ma io le voglio tutte 12. Zia, ma quella macchinina ora non c'è, forse non l'hai portata. No, no, zia, io l'ho portata, era qui, aveva le strisce, aveva quattro ruote, era quella che andava veloce. Va bene, zia, che dobbiamo fare? L'abbiamo persa. Zia, secondo me è da qualche parte. Ok, provo a guardare sotto la cucina, la macchina, niente, si era, non so, volatilizzata. Così Gioele comincia a piangere. E non avendo elaborato il lutto di qualche anno prima, io ho cominciato a tremare. Ha detto, e ora che succede? Perderai il respiro. Ha cominciato a piangere. E io cercavo di consolarlo, zia, ma non era così bella quella macchinina. Guarda queste come sono belle, sono più potenti. No, voglio proprio quella, zia, voglio proprio quella. E allora ho cominciato a dire, zia, ma non ti preoccupare, quando la trovo, magari domani smonto la cucina, chiamo i tecnici dell'IKEA, togliamo tutto, la troveremo, non ti preoccupare. No, la voglio proprio ora. E lì ho detto, Sara, fai la zia matura. Me ne vado in bagno, lo lascio piangere, torno e dico, Spirito Santo, ti prego, dammi la sapienza. Torno da Gioele e dico, Gio, sai una cosa? Abbiamo perso la macchinina. Ma io sono triste. Piangi. Ah! Non ti preoccupare, vieni, vieni la zia, piangiamo insieme per questo lutto. Ma ho scoperto che per lui, ora, a parte gli scherzi, sono una buona zia, perché l'ho lasciato piangere. Ha elaborato il suo lutto e quando è venuta la madre ha pianto ancora. Sapete una cosa? Dopo 2 giorni ho trovato la macchinina. Era veramente sotto la lavastoviglie. Ma quel momento di dire, Gio, l'abbiamo persa, piangiamo, elaboriamo insieme questo lutto. Mi sono trovata a passargli dei fazzolettini in senso simbolico. E penso che questo debba accadere ogni volta che viviamo delle situazioni complicate. Ognuno di noi non può essere immune dal trovarsi in condizioni complesse, ma quello che è nella nostra responsabilità è dare la libertà allo Spirito Santo e anche di elaborare questo lutto. Voglio farvi vedere una foto ancora. Guardate questa foto. È inutile che ridete, altrimenti dovrò elaborare un triplo lutto. Queste siamo io, Letizia e Noemi, esattamente 15 anni fa, in via Santa Lucia. Chi si ricorda questa parete bellissima che avevamo nell'altra chiesa, stupenda? La domanda di questa foto è come mai Sara cantava? Lo so che ve la state facendo, però diciamo in quei momenti non c'era grande disponibilità di voci e quindi mi facevano fare anche questo, mentre il pastore Mirko suonava il bongo. Quindi diciamo ci siamo e anche la chitarra, ci siamo trovati diciamo in queste condizioni. Il problema con questa foto non è elaborare del perché stavo cantando, ma elaborare che avevo almeno 20 kg di meno in questa foto. E quindi quando vedo questa foto devo elaborare il lutto che non sono più quella persona. Però questa foto potrebbe darmi l'occasione di dire, però eri quella, quindi ricomincia a fare la dieta. A parte queste stupidaggini. Abbiamo dei lutti che devono essere elaborati, altrimenti rimangono cicatrici nella nostra carta d'identità. 2-3 informazioni. Se Dio ci ha creati in maniera che vivessimo il dolore, è perché Lui l'ha previsto nella nostra vita. E questo deve farci rilassare, perché Dio è il Dio sovrano. E quando Lui dice che è vicino, che è amico, che è padre, vuol dire che Lui è padre anche nel dolore, anche nella sofferenza. La seconda cosa è che alcune volte abbiamo bisogno di prendere un attimo di tempo, di dare attenzione a quelle emozioni che viviamo, che vogliamo soffocare, che non vogliamo comprendere di noi stessi, che non vogliamo accettare di noi stessi. A volte dobbiamo un attimo prenderci il tempo per capire che cosa mi sta succedendo, in maniera da poter capire meglio, pulirle e poi andare avanti. E l'ultima cosa riguardo al lutto è che ha una potenzialità incredibile di far nascere dalla nostra vita delle fasi straordinarie. Quando siamo nel lutto non ce ne accorgiamo, ma quando ne siamo fuori possiamo guardarci dietro e dire grazie Gesù. È stato doloroso, è stato difficile, ma ce l'abbiamo fatta. Geremia 31 dice, la Vergine si rallegrerà nella danza e i giovani insieme ai vecchi e i giovani insieme ai vecchi, perché muterò il loro lutto in gioia. Ma se non c'è una cosa da trasformare, cosa diventerà gioia? Tutti vogliamo vivere gioia, ma l'intensità della gioia diventa più profonda quando viviamo la profondità del lutto. Siete con me? Come possiamo definire se siamo in un lutto o meno? Quali sintomi possiamo vedere fuori da noi, esternamente a noi e in noi? Ci sono dei sintomi del lutto. Fatemi fare un po' la psicologa, eh? Non ho messo neanche gli occhiali e la giacca. In genere quando faccio la psicologa metto un po' di più, diciamo, una certa serietà, ma con voi, famiglia, non me lo concedo. Il lutto è evidente a volte a livello fisico. Guardiamo un po' di sintomi. Insonnia. L'ansia di andare a letto, di cominciare a pensare, i pensieri diventano pesantissimi, perdita dell'appetito, mal di testa, nausea, utilizzo di medicinali eccessivi per coprire il dolore, che diventa anche fisico, situazioni di abuso. Quando viviamo dolore e sofferenza, cerchiamo dei palliativi, l'alcol, la sessualità distorta, le sigarette, possono essere un lutto non elaborato. Abbiamo anche dei sintomi a livello psicologico, le crisi di pianto. Non so perché sto piangendo. Il senso di confusione, di affaticamento mentale, il rancore. Il rancore te lo porti qui. È fisico e psicologico. I sensi di colpa, la depressione, l'apatia possono essere sintomi di un lutto non elaborato. Ci sono anche dei sintomi spirituali. Volete vederli con me? La lamentela. Ti ricordi quando il popolo di Israele è uscito dall'Egitto come schiavo, è diventato libero ed è entrato in una terra che non conosceva? La prima cosa che ha fatto è stato lamentarsi che non c'era acqua, che il posto non era come se l'erano immaginato, che non c'era cibo, che era un deserto, eppure uscivano da una situazione di schiavitù. Dovevano elaborare il lutto del dove erano stati e di dove stavano andando. La lamentela è sintomo di lutto non elaborato. Perché? Perché hai un'aspettativa assurda. La nostra chiesa è una chiesa bellissima. Sa, devi venire nel mio gruppo. Devi vedere, perché l'aspettativa del gruppo che hai è un gruppo perfetto. E poi arrivi e c'è quello che puzza di sudore, ed è quello che ti confessa che ha peccato, e c'è quello che vive un problema nella famiglia, e dici, ma com'è che il gruppo non è perfetto? Ti voglio dire una cosa, l'aspettativa è sbagliata, non è il gruppo che è sbagliato, perché aspettarci che la Chiesa sia perfetta significa annullare le parole di Gesù che dice in me la mia sposa è senza ruga e senza macchia, ma è in Cristo e non in noi. E allora viviamo problemi nella leadership, problemi nelle persone, problemi con le persone, problemi nelle relazioni anche come Chiesa, perché l'aspettativa è sbagliata e nasce lamentela. Ancora c'è rabbia e te lo tieni dentro, e non appena uno ti suona con il clacson più del dovuto esplodi in una maniera assurda. Ma poverino, hai qualcosa che non hai elaborato, non quel clacson che suona in maniera sbagliata. Ancora la divisione, il dividerci tra noi come intimità, come comunione, è sintomo di un lutto non elaborato. Ancora la separazione, l'isolamento da Dio. Oh, quanto è brutto questo sintomo. Siamo arrabbiati, non abbiamo elaborato bene una situazione, non ci è piaciuta come è andata, non abbiamo capito dove stava Dio, perché ci ha fatto vivere quello, e la cosa che viviamo soprattutto è rabbia verso Dio, e la rabbia ci divide da Lui, ci divide da quell'intimità, da quella gioia, da quel vivere stagioni nuove. La difficoltà a perdonare, oh quanto è brutto questo sintomo, sei così arrabbiato che non perdoni te, che non perdoni gli altri, mai sia qualcuno ti fa qualcosa, c'hai il vaso già strapieno e arriva quella goccia che può far traboccare tutto. Anche il peccato è sintomo di lutto non elaborato. Ti senti talmente diviso da Dio che continui a cercare la tua identità sbagliata, la tua identità vecchia. Il Signore dice, io ho fatto una cosa nuova in te. Molto spesso abbiamo vissuto uno di questi problemi e non abbiamo avuto il coraggio di dare voce a queste emozioni. Forse le viviamo e abbiamo difficoltà a riconoscere che ci sia qualcosa del genere. È solo la giornata che è andata storta, è solo il problema del momento, ma forse c'è qualcosa di più profondo. Questi, quei sintomi che abbiamo letto fino ad ora, sono sempre la punta dell'iceberg. Ma sai una cosa? Nel Salmo 139 Davide ha scritto che la conoscenza che lui ha di noi è talmente alta da non poterla raggiungere. Cosa vuol dire? Che dobbiamo rilassarci all'idea che anche se noi non ci capiamo, anche se noi leggiamo dei sintomi che non sappiamo unire, dei puntini che non sappiamo vedere insieme, lui lo può fare. Ed è lui che può mettere in luce tutto quello che c'è sotto l'iceberg. E comincia a dire: Sara, tu sei arrabbiata, ma non sei arrabbiata perché piove. Tu sei arrabbiata perché non hai elaborato questo, perché non hai perdonato questo, perché non hai guardato questo in un'altra maniera. E questo proviene da quest'altro punto. Questa conoscenza è straordinaria. Questa conoscenza è guarigione. Questa conoscenza è metterci davanti a Dio e dire: Signore, tu sai ogni cosa di me, tu mi conosci meglio di qualsiasi altro, per piacere fai venire fuori. E sai una cosa, Chiesa? Io vivo da stamattina proprio un tempo di guarigione. So che lo Spirito Santo ha proclamato oggi per la nostra Chiesa un tempo di profonda guarigione. Già da stamattina, tramite il pastore Gianni e la conduzione di Gianluca, la conduzione del pastore Mirko stamattina, c'è guarigione nell'aria. C'è guarigione che lo Spirito Santo vuole darti. Allora non te ne andare a casa senza averla presa per te stesso. Chiedi a Dio: Signore, come posso guarire? All'interno della guarigione abbiamo bisogno di una cosa che si chiama consapevolezza emotiva. Che cos'è questa parola difficile? Vi ricordate quando 2 settimane fa il pastore ci ha detto: chiediti come ti senti? C'è un esercizio che da qualche anno faccio, mi sveglio e dico: come sto oggi? Come sto oggi? Sara, come stai oggi? Sara, come stai oggi? La settimana scorsa ero al nord, a Varese, mi sono svegliata con il rumore della pioggia. Per loro era traumatico, per me è stato bellissimo. Mi sono svegliata con una gioia straordinaria. Mi sono chiesta: come stai oggi? Felice, piove. Per noi pugliesi non piove da 3 mesi, quindi abbiamo visto la pioggia, c'era quel rumore romantico della pioggia. A quanti piace la pioggia? Oh, non sono l'unica, non depressa, non meteoropatica, ok? Che bello. Chiediti come stai oggi. Chiediti come sei entrato. Chiediti dopo la lode, ora, come stai ora? Fatti questa domanda un attimo. Come sto? Come sto ora? Come mi sento oggi? Questo ci dà l'idea di essere consapevoli. Mi sento triste. Se ti senti triste, e allora quel sentimento, quell'emozione, deve essere in grado di controllare la tua giornata in una maniera buona. Cioè, devo passare del tempo in adorazione. Non posso incontrare quella persona, non posso andare al lavoro, non posso andare a scuola con questo sentimento, questa nuvola su di me. Io voglio assolutamente lasciarla via e tornare a gioire. Ecco perché dobbiamo essere consci delle nostre emozioni. Quando entri in chiesa, come stai? Come stai? Meglio che quello non mi rivolga la parola, se no non so cosa può uscire da me. Bene. È buono che tu venga in chiesa, che ti chiudi in bagno a chiave e che dici: Signore, ti prego, fammi uscire con il perdono nel cuore. Fammi uscire con la gioia. Ecco perché dobbiamo essere consci di noi. La Bibbia ci offre numerosi spunti per pensare al lutto, alla tristezza e alla gioia. Leggiamo insieme dei versi. Salmo 30. La sera ci accompagna il pianto, ma la mattina viene la gioia. Che bello questo. Piangi, ma poi la mattina viene la gioia. Il Signore è vicino, il Signore è vicino, il Signore è vicino. Shakera la persona accanto a te, digli: il Signore ti è vicino. Diglielo, shakeralo, mettigli una mano, shakeralo, anche se non lo conosci, e digli: il Signore è vicino. Il Signore è vicino a coloro che sono afflitti, con il cuore afflitto. Ancora, la salvezza dei giusti proviene dal Signore. Egli è la loro difesa in tempi di angoscia. Dove andremo a piangere? Dove andrai a piangere? Dove vai a piangere? Devi andare dal Signore. Devi andare da Dio. Non ci sono braccia più consolatorie. Non ci sono parole più balsamo che non quelle sue. Dove devi andare se stai male? Devi andare da Gesù. Ti piace? Ancora, beati quelli che sono afflitti perché saranno consolati. La Bibbia è piena di esempi di persone che hanno elaborato un lutto. Ve ne voglio prendere qualcuno, sono certa che li conosciate già bene. Giuseppe, nella Genesi, Genesi 50, vi racconto un po', ha vissuto il pieno lutto della morte di suo padre Giacobbe, una morte che è significata per lui rielaborare tutto quello che ha vissuto nella sua infanzia, nella sua adolescenza, nella sua età adulta e il posto in cui era collocato in quel momento. Quella morte ha riaperto per lui un senso di rielaborazione. È stato venduto come schiavo dai suoi fratelli, è stato deportato in un'altra nazione, è stato messo in prigione, poi è diventato leader e influente da tutti i punti di vista. In quell'occasione, quando è morto suo padre, lui ha detto: voi avete pensato del male nei miei confronti, ma Dio li ha trasformato in bene. Questa è la piena elaborazione del lutto. Cosa ha fatto Giacobbe? Ha pianto prima 30 giorni, poi 50 giorni, ha pianto un sacco di tempo, perché è buono piangere quando viviamo situazioni difficili, ma poi si è asciugato le lacrime, ha passato il tempo di lutto e ha detto: bene, Gesù, vedo te in questo lutto. Gesù, c'era una valle di Baca, ma tu l'hai trasformata in una sorgente di vita. Ti piace? Neemia, il mio personaggio preferito, era lì alla corte del re. Ad un certo punto un uomo viene a dargli una notizia, gli dice: Neemia, le mura di Gerusalemme, il popolo di Israele è in rovina. Una notizia bruttissima. Sai Neemia come reagisce? Neemia 1 dice: quando udì queste parole, ascolta, mi misi seduto, piansi e per molti giorni fui in grande tristezza, digiunai e pregai davanti al Signore. E quel tempo di digiuno e di preghiera, postumo al pianto, al sedersi, all'isolarsi, il tempo di digiuno è il tempo di stare davanti a Dio, ha acceso in lui una fiamma. Dio gli ha detto: perché non fai qualcosa? E da lì ne è nata una storia straordinaria, le mura sono state ricostruite, c'è un libro della Bibbia dedicato a questo momento storico del popolo di Israele, perché un uomo ha elaborato bene il suo lutto con il Signore. Ti rendi conto? Ancora, una storia interessante, la moglie di Lot. Vi ricordate che Dio dà un ordine a Lot? Dice: lascia Sodoma e Gomorra, prendi tutto quello che hai e vattene. E cosa fa sua moglie? Si è girata a guardare quello che stava lasciando ed è diventata una statua di sale. Quando continuiamo a guardare indietro, ci perdiamo quello che c'è davanti. Quando continui a rivolgere il tuo sguardo con quello che è stato, quello che è successo, quello che stai lasciando, non hai la possibilità di abbracciare le cose nuove che Dio ha per te. E allora smettiamo di guardare indietro. Giobbe, non c'è un uomo che abbia vissuto più lutto di lui nella Bibbia. Gli è morta la moglie, gli sono morti i figli, è stato tutto perso, gli è stato rubato tutto e a un certo punto, guardate come finisce Giobbe, ha avuto anche degli amici non proprio interessanti, antipatichelli, che non gli hanno dato buoni consigli. E sai quando lui elabora veramente il lutto? Quando si mette davanti al Signore. C'è un verso in Giobbe che dice: sto combattendo con Dio, e Dio gli dice: che stai facendo? Perché stai combattendo con me? Dove ci porta il lutto? Dove ci porta la rabbia? A combattere con Dio. E Giobbe ad un certo punto dice: riconosco che tu puoi tutto. E il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora il mio occhio ti vede. Dove l'ha portato il lutto? A riconoscere, a conoscere una nuova parte di Dio. Un nuovo lato. Una nuova parte del suo carattere, una nuova prospettiva, non l'aveva mai vissuta. Gesù ha vissuto un lutto, ha vissuto la morte di uno dei suoi migliori amici, che era Lazzaro. C'è un solo verso nella Bibbia in cui è scritto Gesù pianse, ed è in Giovanni 11. Gesù pianse, punto. E sai perché? Perché era morta una persona a lui molto cara. Perché Gesù ha pianto se stava per farlo risuscitare? Ve lo siete mai chiesti? Cioè, se sai che sta per cambiare qualcosa, perché piangi? Nel suo essere uomo ha perso quella persona cara. ha vissuto il lutto, lui, ma anche delle sue sorelle, ma anche della sua famiglia, ma anche del suo paese, perché Gesù simpatizza nelle nostre condizioni più profonde. Gesù non è distante, questo verso ci insegna che non c'è cosa che Gesù non possa capire, anche se è pronta a trasformarla. Per cui quando viviamo cose drammatiche, quando viviamo cose complicate, noi dobbiamo andare da Gesù. Diamoci il tempo per elaborare. Diamoci il tempo per elaborare il lutto. E lo dico di nuovo, diamoci il tempo. Sai perché? Perché viviamo in una società in cui basta il tuo pollice per passare ad un'altra cosa. Vi siete mai resi conto che puoi parlare via WhatsApp con una persona che sta elaborando un lutto profondo e nella chat dopo scrivi e in quella dopo è che cosa mangiamo oggi? Ed è il tempo di un dito che si sposta. Pensa alle notizie che vedi su Facebook. Scrolli, giusto? Dalla foto del gattino alla foto del diluvio avvenuto negli Hawaii, alle persone che muoiono, tutto con un dito. Sembra che la società non ci voglia dare il tempo di elaborare bene le cose che ci capitano. E mentre non le elaboriamo, ce le portiamo e non ci rendiamo conto. Uno studioso ha previsto 5 fasi, voglio concludere con questo. Perché, Sara, perché ci stai dicendo queste cose? Perché Dio vuole che noi elaboriamo bene quello che viviamo. Perché Dio vuole rendere questa Chiesa matura nel vivere le emozioni. Perché Dio vuole renderti sano, vuole renderti un membro di Chiesa straordinario. Qualcuno ha detto che ci sono 5 fasi. La prima fase è quella della negazione. Cosa vuol dire? Lo shock per la morte, lo shock per un divorzio, lo shock per una situazione complessa è talmente forte che la neghi a te stesso. No, non è morto. No, non è successo. No, non è possibile. No, non è possibile che sia successo questo. Tante persone vivono in questa fase. Tante persone lasciano negli armadi o in frigorifero i farmaci del defunto o il pettine del defunto perché è in fase della negazione, non ti rendi conto che è successo, non vuoi che succeda. È una protezione, il nostro cervello si protegge così. È troppo duro, è troppo difficile. La seconda fase è quella del patteggiamento, della negazione. È quando tu dici di no al tuo bambino e lui dice «E se ne mangio un poco?» No, non puoi. E se ne mangi poco così? No, cerchi di contrattare. Cerchi di fare in modo. Gesù, se lo porti in vita, non dico più parolacce. Gesù, se mi fai avere questa promozione, io smetto di fumare. Questa è la fase del patteggiamento. Provare a tornare ad una fase precedente, combattendo. E quando ti rendi conto che non succede nulla, allora entra la rabbia. Oh, che brutta questa fase. Che brutta la rabbia. La rabbia è non puoi più riavere indietro lo stato precedente. Un adolescente è arrabbiato perché non può più essere bambino, non sa come essere un adulto. Sei arrabbiato. Non è andata bene. Questa rabbia la senti dentro. E hai rabbia per tutto e contro tutti, invece devi pensare un po' più in profondità. Cosa sto dicendo? Che la rabbia è sbagliata? No. La rabbia ci porta ad elaborare il lutto, è una buona locomotiva per arrivare alla fine di questo processo. Ma, vi ricordate la predica del pastore, se rimaniamo in quelle emozioni, allora ci portano molto distante. Sai che puoi morire arrabbiato? Sai che c'è questo rischio sulla nostra vita di morire arrabbiati con Dio, con nostra moglie, con nostro marito, con i nostri figli? La rabbia è velenosa. La rabbia distrugge tutto. È buona se ci porta ad un'altra fase. Quando sei arrabbiato ed ad un certo punto ti arrendi, e allora lì interviene la fase della depressione, la tristezza. Fai conti con una cosa che ormai non è più. E non lo sai come affrontare quella cosa nuova. E allora sei triste. Piangi, non va bene, sei disperato, non hai speranza. Anche qui, sai che puoi morire depresso? Io non voglio morire depressa, ma la depressione può portarci ad un nuovo livello. Quando la depressione ci blocca vuol dire che stiamo morendo già, ma se la depressione ci porta ad un altro livello, allora arriva l'ultima fase, che è la fase dell'accettazione. che è la fase del è stato bruttissimo, non l'ho capito, mi ha fatto male, Dio che cosa hai fatto, perché non c'eri, non ce la posso fare, però ti riconosco come sovrano, però so che in questa nuova fase tu sarai con me, non ho molte carte da giocarmi, però tu sei con me, tu sei con me, tu non mi lasci. E allora possiamo affrontare una cosa nuova insieme. Ti piace? Uno dei lutti più particolari è quando è morto il figlio di Davide. È una storia straordinaria, è una storia brutta, ma il figlio di Davide è Bathsheba, è morto. E prima si è ammalato e Davide ha digiunato, ha pregato, si è coperto di sacco, si è coperto la testa di cenere, non ha mangiato per tanti giorni. E poi ad un certo punto è scritto che il bambino è morto e avevano paura di dire a Davide che il bambino fosse morto perché temevano che quella depressione, c'è proprio scritto, lo conducesse ad un'azione forte. Sapete come ha reagito Davide? Ha detto: il bambino è morto? Sì. Si è lavato la faccia, si è vestito e ha cominciato a mangiare. E gli hanno chiesto: beh, come mai questo cambio? E lui dice: è morto, basta. Si è chiusa una fase, devi accettare, devi andare avanti. Sapete che la maggior parte dei matrimoni non riescono ad accettare un cambiamento di vita, il cambiamento che entra con un figlio, il cambiamento che entra con due figli, tua moglie che cambia, tuo marito che cambia. Lo sai che la maggior parte delle relazioni finiscono perché le aspettative che ti sei fatto verso quella persona, verso quell'amicizia, verso quel pastore, verso quella chiesa, viene fallita e non hai ancora avuto forza per accettare. Devi accettare, dobbiamo accettare, chiesa, e andare avanti. Tu sei quello che eri 15 anni fa? No, lo devo accettare, non sono più quella persona. Però posso essere un'altra persona. Però la stessa potenza che avevo lì, posso averla ora qui. E sai cosa? Quei 15 anni in più mi danno maturità, mi danno esperienza, mi danno visione, mi danno strategia, mi danno forza. Viviamo in una società in cui, mamma mia, quando eravamo belli, quanto eravamo belli. Lo sai cosa mi fa ridere? Quando entri nelle case e trovi la foto di quando ti sei sposato. Noi non ce l'abbiamo. Ed è buono. Perché sembra che il giorno più bello sia quello. No! Il giorno più bello per un matrimonio è quello che stai vivendo oggi. Non è il giorno della tua cerimonia. È quello che vivi quando ti svegli la mattina con tuo marito. Quello è con i tuoi figli. Non sono più quei bambini obbedienti che stanno tra le tue braccia. Sono degli adolescenti scapestrati che vorresti abbattere. Come diceva mia madre, io ti ho messo al mondo, io ti tolgo. Ma devi accettare che non è più un bambino, devi accettare che non è più una bambina, devi accettare che faccia delle scelte. La tua chiesa. Oh, questa è finalmente la mia chiesa. Wow, la lode è stupenda, le persone mi sorridono, c'è sempre una sedia. E poi devi accettare che non c'è posto per te perché sei arrivato tardi e nessuno ti ha tenuto il posto. E il tuo pastore ti dice: questa scelta non è proprio quella che è la cosa migliore per te. No, devi accettare. Devi accettare, perché quando accettiamo, allora la valle dell'angoscia, la valle del pianto, la valle della rabbia, ma anche la valle dell'abitudine, anche la valle della tristezza, anche la valle della depressione, quella diventa in fonte di gioia, quella diventa sorgente di vita. Quindi chiesa, abbiamo davanti una stagione straordinaria. Quello che prego per noi è che possiamo andare avanti in questa nuova stagione senza cicatrici, senza dirci: no, non ce la faccio. Chiedi aiuto, chiedi aiuto. Non disdegnare il processo, accetta il processo di elaborazione, smetti di combattere con Dio, smetti di combattere con Dio, smetti di combattere con Dio. Lo dico di nuovo, smetti di combattere con Dio. Non ti porta da nessuna parte, non ti porta da nessuna parte. E sai una cosa? Non è Dio che vuole quello per te, però Dio rimane con te in quelle cose lì. Incredibile, bellissimo. Ancora, sii resiliente, sii pronto al cambiamento. sii pronto a cambiare forma, sii pronto a cambiare fase, sii pronto a cambiare stagione, perché quando ci arrampichiamo strenuamente su qualcosa, allora sarà più difficile vivere il cambiamento, allora sarà più difficile, sarà più sofferenza a cambiare. Ma quando dici ok, oggi è così, domani Signore siamo sotto la tua mano, allora sei più aperto a quello che può succedere ed è più facile. E ancora, ultimo consiglio, vi chiedo di alzarvi in piedi, voglio darvi questo consiglio, voglio darci questo consiglio in piedi. Vivi nella gioia. Vivi nella gioia. Vivi nella gioia. Oh, vivi nella gioia. Vivi nella gioia, non delle stagioni, non di quello che hai o di quello che non hai. Vivi nella gioia. Vivi nella gioia di appartenere a Dio. Vivi nella gioia che Dio è tuo padre, vivi nella gioia che Lui ti ha perdonato, vivi nella gioia che Lui è il quarto uomo che scende con te nella fornace ardente, vivi nella gioia che qualsiasi cosa ti succederà puoi sempre contare sul Dio che ti ha creato. Vivi nella gioia, questa è fonte di vita, questa è sorgente di vita per gli altri, questa è sorgente di vita per gli altri. Amen. Ti piace Chiesa? Ti piace Chiesa? Vogliamo pregare insieme. Se hai riconosciuto qualcosa di quello che ho detto, che ho bisogno di un fazzoletto, presentati ora davanti al Signore, proprio con libertà, con segretezza, con intimità, apri il tuo cuore, aprilo un attimo. Il Signore conosce già bene quello che hai vissuto, il Signore conosce la tua storia, il Signore sa esattamente in quale fase sei. Il Signore sa che stai combattendo con Lui. Il Signore forse sa che stai combattendo con la rabbia. No, Dio certamente lo sa. Dio certamente sa i lutti che stai vivendo e che non hai elaborato bene. Sai una cosa? Possiamo mettere tante toppe ai nostri lutti, ma solo Dio ti dà un vestito nuovo. Tante toppe, tante toppe. Puoi cercare nelle relazioni, puoi cercare nei soldi, puoi cercare nei piaceri di questa vita, ma solo Dio ti può dare un abito nuovo, un abito che non è stato lacerato, un abito che non va né largo né stretto, che è esattamente il tuo, che Dio ha cucito su di te, perché lo ha fatto con quello che hai vissuto per farlo risplendere. Amen. Vogliamo pregare insieme. Grazie Padre. Se senti che lo Spirito Santo sta parlando al tuo cuore, alza le tue mani, apriti proprio alla sua opera, alza le tue mani in segno di arresa, di aspettativa, di accettazione, di liberazione, di guarigione. Se riconosci che ci sono dei lutti che devi elaborare, alza le tue mani ora, vogliamo pregare insieme, presentati a Dio, presentati a Lui. Renditi a questa presenza di Dio dolce, al suo tocco, perché Dio non vuole farti tornare a casa come sei venuto. C'è guarigione nella sua presenza, c'è guarigione sotto le sue ali, c'è guarigione con le sue parole, c'è guarigione quando Lui si avvicina a noi, c'è guarigione quando lo lasciamo entrare, c'è guarigione nel profondo, nel profondo. Nel profondo c'è guarigione. Forse non sai neanche tu che doveva arrivare fino lì Dio, ma c'è guarigione, c'è guarigione, c'è guarigione per te. Ora thank you. Spirito Santo sta ministrando perdono. Forse devi proprio riconciliarti stasera. Devi riconciliarti con qualcuno, devi riconciliarti con Dio. Non perdere questa occasione. Quando accetti la sua opera, lui va in profondità e fa delle cose nuove. Non spaventarti. Tuo padre non può farti del male, ti fa per forza del bene. Che le cose che ti stai portando dietro ti hanno costretto in una direzione che non è la tua. Già da prima sentivo forte che Satana sta mantenendo situazioni così in profondità da soffocare e da far cambiare strada. Svergogna quest'opera. Svergogna quest'opera nel nome di Gesù. Ora, nel nome di Gesù, ora svergogna l'opera di Satana che ti mantiene in uno stato di depressione, che ti mantiene in uno stato di rabbia, di rancore. Svergogna l'opera di Satana. Alza le tue mani se sei in questa condizione. Alza le tue mani e arrenditi a Dio. Arrenditi alla sua libertà, alla sua guarigione. Gloria a te, Padre. Gloria a te, Padre. Nel tuo matrimonio, la tua identità, Dio vuole fare questa cosa. Dio vuole portare guarigione. Gloria a te, Padre. Signore, ci presentiamo a te. Così come dice la tua parola, noi siamo nudi davanti a te, non possiamo nasconderci. Gesù, grazie perché tu vedi nel profondo e tu metti le tue mani dolci ma potenti nel profondo. Io ti prego, Signore, di farci entrare in una stagione in cui le cose vecchie sono passate. Nel tuo nome, Gesù. Io proclamo sulla nostra Chiesa che le cose vecchie sono passate. Ecco, sono diventate nuove in te. Gesù, e accettiamo e abbiamo speranza perché tu hai la tua mano su di noi, tu hai la tua mano su di noi. Tu hai la tua mano su noi come figli e figlie, su noi come Chiesa insieme. E tu ci porti ad una stagione piena di vita, piena di gioia, piena di trionfo, piena di vittoria, piena di conquiste, perché siamo slegati dalle cose vecchie. Nel tuo nome, Gesù. Nel tuo nome, Gesù. Nel tuo nome, Gesù. È una chiesa piena di fede, dice? Una chiesa piena di fede, dice? Una chiesa piena di fede? Amen.